va in valle questo weekend? In valle? Perché? Ma sai, c'è il campeggio, ci sono delle persone sul tetto, stanno sgomberando San Didero. Ma come? Ma non ce l'ha scritto da nessuna parte, io non ho visto. Ma scusa, non ce li hai i social? No, i social non ce li ho. Vabbè, sì, no, è vero che a volte anche a me capita che non vengo a sapere delle cose, però pensavo lo sapessi. Mannaggia, ci vorrebbe proprio uno strumento per riuscire a sapere tutte le cose che succedono, sì, le cose per trovare interessanti. Tutte queste informazioni. Ma la radio! Questa era My Favorite Game dei The Cardigans. Milano è una città incalzante. Brutale, violenta, le sue dinamiche e i suoi ritmi travolgenti. È specchio e vetrina della macchina economica e industriale. Ogni abitante percepisce presto o tardi di essere una pedina. Le voci di chi si muove al suo interno si perdono nel frastuono generale. Una macchina perfettamente funzionale ai soldoni di pochi, ma che con la pandemia ha visto nuove crepe farsi spazio. Lì si innesta il malcontento di tanta gente, rider, sgomberate e sgomberati, mercatari, persone senza lavoro e ancora altre. Ma senza una voce, o almeno ancora troppo flebile o isolata. Spesso quindi ci siamo ritrovati a pensare, ma la radio Non servirebbe una radio che serve a unire queste voci per farle diventare davvero dirompenti? Eccoci qui quindi, in quattro gatti ma buoni, riuniti in un bugigattolo nel cuore, anzi nella gola di Milano, a trasmettere questa prima trasmissione di una nuova, ancora embrionale, Radio Libera. Una radio non commerciale, che avrà come protagoniste, oltre alle nostre voci, le urla sorle di questo... che in questo momento provano a sfondare il muro del frastuono cittadino e dei suoi dintorni. Darà spazio a testimonianze taglienti di chi ha uno sguardo sul mondo diverso da chi opprime e sfrutta. Per ora il nostro palinsesto consta di una sola trasmissione, o forse già due, ma a disposizione abbiamo uno streaming di 24 ore. Quindi qualsiasi gruppo o individualità che volesse fare una trasmissione, fatevi pure avanti, scriveteci a malaradio@autistici.org. Gli ingredienti che per ora cerchiamo di mettere in questo minestrone sono musica, controinformazione, lotte e voci prese per strada. La puntata verrà registrata e poi metteremo a disposizione il podcast e degli ritagli interessanti. Ci scuserete, speriamo, degli inciampi e degli strafalcioni. Radiofonici non siamo di professione e questo è il bello dell'autogestione. Esatto. In questa puntata parleremo di tantissime cose. È sempre un po' un minestrone la nostra trasmissione, come abbiamo già detto. Oltre alla musica, parleremo dei vari spazi sotto sgombero che ci sono, dell'occupazione del piccolo qua a Milano, della FedEx e delle rivolte degli scioperi dei lavoratori, di Neymaezza e di quello che è successo la settimana scorsa nel quartiere di San Siro, della banda degli Ottoni a Scoppio, avremo anche una piccola intervista con loro, nonché anche con quelli del piccolo. Poi parleremo anche di tante piccole rivolte che sono arrivate alle nostre orecchie e infine faremo un piccolo tributo a un nostro caro compagno. Direi che possiamo iniziare. La prossima la nostra canzone, o no, DJ Talk. Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spie nel mio microfono, so bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle palle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico, più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi danno olio all'ingranaggio. Con le bianche al potere, tra bocchini sotto scrivanie, tracciano strategie per nuove lobotomie. Squali, vogliono vegetali, schiavi in fila come militari, per ciò mandano i loro emissari a scuola, i miei professori, in strada pubblici ufficiali, messaggi subliminali nei televisori, predicatori vendono la fede a rate, comprare ubbidire, ma non sapranno mai le mie coordinate. Non hanno capito che la chance che mi piego subito, che una moneta cade croce 100 volte di seguito, valgo più di 4 cifre, non credi, cronache di regime, cose che non vedi, cose che non vedi, cose che non vedi, cospirazioni, cospirazioni per il 2000, per il 2000, sana scuola, sana scuola, sana scuola. Allora, torniamo in diretta, 20:44, Mala Radio Milano. Queste erano le Sacre Scuole, una crew rap, insomma, vecchia, degli fine anni 90 di Milano, che è stato il preludio, insomma, a quello che poi sono diventati i Club Dogo, cronache di regime, quello che proviamo a fare noi, insomma, è provare appunto a scardinare le cronache di regime che ci giungono tutti i giorni e provare a dare un'altra voce. Insomma, la narrazione dominante, provare a dare un'altra narrazione. Una narrazione di parte, direi anche. E abbiamo deciso di iniziare la puntata, questa puntata, ma anche le prossime, parlando di sanità e salute. E in questo momento, infatti, abbiamo deciso di parlare con un compagno dell'ambulatorio medico popolare, un compagno e un medico. L'ambulatorio medico popolare si trova in Via dei Transiti 28 e dal 1994 esiste per portare servizi e cure mediche a chi non se lo può permettere o per una questione economica oppure anche per i documenti. Questo posto, oltre a dare un servizio, un'assistenza medica, ragiona e riflette sulla questione della sanità. e hanno iniziato da poco una campagna di lotta che rovescia appunto il luogo comune: quando c'è la salute c'è tutto, sostenendo invece che quando c'è tutto c'è la salute. E volevamo appunto farci raccontare meglio questa campagna e anche la situazione negli ospedali. Ora proviamo a chiamarlo. Pronto? Sì. Pronto, mi senti? Ti sento. Ok, io non vado, faccio. Non ti sento. Non mi senti? Ok, ora ti sento, perfetto, forte e chiaro. Niente, ho presentato l'ambulatorio medico popolare, la vostra campagna. Volevamo sapere un po' se ci potevate raccontare meglio di questa lotta e anche la situazione nella sanità pubblica odierna. Dunque, allora, la campagna è una campagna che mette il punto sul fatto che la salute non è solo accesso alle cure, ma è tante altre cose. Infatti il titolo della campagna è: quando c'è tutto, c'è la salute, vogliamo tutto. Sottolineando quelle che sono una serie di condizioni necessarie e indispensabili per avere una condizione di salute adeguata. Questa campagna può essere vista sia sul sito dell'ambulatorio, che ha questo link, ambulatoriopopolare.noblogs.org, oppure sulla pagina Facebook, che è www.facebook.com/ambulatoriopopolare. E niente, io, se volete, diciamo che questa campagna si svolge con una cadenza settimanale. Ogni settimana mettiamo sul sito un ragionamento, una riflessione nuova, un argomento nuovo, e ci sono anche una serie di materiali allegati. Se volete possiamo partire oggi da quello che è il primo capitolo, sì, che si intitola Cura e accesso alle cure. Magari ve lo leggo e poi, se volete, mi fate qualche domanda. Sì, volentieri. Ok, va bene. Allora comincio a leggere. La cura dovrebbe soddisfare un bisogno essenziale. L'accesso alle prestazioni dovrebbe essere universale, rapido e gratuito, e l'offerta di cura dovrebbe avere una distribuzione capillare sul territorio. Invece, nella società attuale, la società capitalista, tutte le politiche sanitarie sono basate sul profitto. L'accesso alle prestazioni richiede lunghi tempi di attesa e il pagamento di ticket elevati, il che spinge molti pazienti verso le strutture private. Inoltre, sanità territoriale, per esempio medicina di base, poliambulatori, consultori, centri di supporto per problematiche psicosociali o dipendenze, non producendo alcun profitto, sono state completamente smantellate, mentre tutti i percorsi di cura sono stati concentrati nelle strutture ospedaliere. Da questo punto di vista, la pandemia ha solo reso più evidente questa contraddizione. I tempi di attesa per le prestazioni si sono ancora più dilatati, favorendo ulteriormente il ricorso alla sanità privata. E addirittura gli stessi presidi per combattere la pandemia sono stati trattati alla stregua di merci, come i tamponi molecolari a pagamento. Inoltre, la mancanza di un filtro territoriale, la mancanza di un'adeguata medicina di base, ha fatto sì che l'unica offerta assistenziale venisse fornita dalle strutture ospedaliere, che ancora oggi rappresentano un nodo di diffusione dell'infezione virale. Ecco, questo è il testo breve, perché ovviamente deve essere sintetico, che si intitola Cure, accesso alle cure. E questo è il primo degli aspetti che andremo a valutare, poi seguiranno politiche sanitarie, sicurezza, case salute, ambiente, rispetto delle fragilità, eccetera, eccetera. Sì, mi sembra, scusa, ti interrompo un secondo perché hai parlato di una cosa interessante che riguardava appunto i medici di base e tu dicevi c'è una mancanza, voi dicevate c'è una mancanza appunto dei medici di base, ma in che senso? Cosa vuol dire che... Allora no, io parlavo della medicina territoriale, nel senso che intanto la medicina territoriale sono i medici di base, ma anche altro, possono essere poliambulatori, consultori e altre situazioni come le cosiddette USCA, quelle situazioni che dovevano andare a curare al domicilio le persone che presentavano dei sintomi, fare una diagnosi, eventualmente dare le cure al domicilio, provvedere all'isolamento e al supporto domiciliare. Ma anche la medicina di base, per esempio, soffre di una grossa carenza, il fatto per esempio che il medico di base è una figura ibrida, a metà tra un libero professionista e un dipendente statale, che prende uno stipendio che è legato al numero di assistiti che ha, che può comunque dare la disponibilità di tempo che ritiene lui, e quindi una figura che già prima della pandemia era carente dal punto di vista di quella che è la soddisfazione dei bisogni, anche perché se ciascun medico di base ha un numero infinito di assistiti è ovvio che il tempo che può dedicare a ciascuno di loro è molto limitato. Infatti. In tutti questi anni, per esempio, questo è un problema non solo per la medicina di base degli adulti, ma anche per la pediatria di base, per i bambini, abbiamo assistito a delle politiche vergognose, nel senso che nessuno si è reso conto, nessuno ha capito che le programmazioni dei curriculum universitari, dei curricula post universitari, quindi i percorsi di formazione per la medicina di base non erano sufficienti a garantire un numero adeguato di medici di base, e questo è un problema enorme con cui ci si sta scontrando, e che la pandemia ha solo accentuato. Sì, esatto. Non so, se vuoi raccontarci qualcos'altro che pensi che sia abbastanza, come dire, una questione importante per la Regione Lombardia, la sanità, riguardo la sanità, o qualcosa... Beh, qualcosa di importante è il fatto che tutta una serie di prestazioni che dovrebbero essere garantite in realtà hanno dei tempi di attesa che sono talmente lunghi che praticamente sono garantite solo sulla carta. Pensiamo a banalmente un intervento oculistico di cataratta. Se i tempi d'attesa sono di 1 o 2 anni, una persona che non ci vede per un periodo di tempo di questo tipo, cerca facendo sforzi economici di rivolgersi al privato, dove in 448 la soluzione gli viene data, dove in 448 il sistema viene risolto pur con un grosso sforzo economico, a meno di non trovarsi in una condizione di indigenza più importante, quindi non poter affrontare la spesa neanche con estremi sacrifici. E su questo volevo sottolineare che mi fa molta specie il fatto che addirittura ci sono nelle radio le pubblicità, no, insomma, per esempio anche su Radio Popolare la pubblicità che propone l'intervento di cataratta privatamente, quando dovrebbe essere nei livelli essenziali di assistenza questa, perché si tratta di garantire il diritto alla vista per tutti, insomma. Questo è solo uno degli esempi, quello più estremo, che ti dice perché quando i tempi di attesa sono troppo lunghi si va verso lo spostamento dei pazienti sulla sanità privata, proprio perché non si riesce a dare una risposta a un bisogno fondamentale nell'arco di un tempo realistico. E un'altra cosa che ti segnalo, che molto spesso le persone si rivolgono alle strutture private, magari quelle un po' low cost, per fare esami, quando il ticket per pagare questi esami è praticamente simile a quello che è il costo dell'esame stesso fatto privatamente. Un esame ecografico ha un ticket che viene a costare 10-20 euro in meno rispetto alla prestazione pagata interamente. Il problema è che le prestazioni pagate interamente in un centro privato low cost te la danno rapidamente, una prestazione in una struttura pubblica ha dei tempi lunghissimi. Sì, esatto. Poi c'era anche la questione dei lavoratori e delle lavoratrici che potevano usufruire di polizze o assicurazioni del lavoro per farsi curare in istituti privati di sanità. Questa è un'altra cosa che è stata secondo me che è vergognosa, il fatto che e su questo anche i sindacati hanno la loro parte di colpa, perché sostanzialmente il fatto di mettere nei contratti lavorativi una assicurazione integrativa, una sanità integrativa, fa sì che intanto costi, perché questa viene data in cambio di una minore richiesta in termini di salario, e poi perché questi sono comunque delle prestazioni che dovrebbero essere richieste, devono essere pretese, perché si tratta di livelli essenziali di assistenza, esatto. E quindi l'accesso a queste prestazioni deve esserci indipendentemente dal contratto di lavoro. E poi l'altra cosa che fa è che crea dei lavoratori di serie A, quelli col contratto e quindi con questi vantaggi di pensione integrativa rispetto a diversi da lavoratori di serie B, che invece sono con contratti che sono precari e quindi che non hanno nemmeno questi benefici. Esatto. Va bene, direi che per questa prima puntata è tutto. Sì, ecco, aggiungerei un'altra cosa, che durante questa pandemia, per quello che dico, che ha solo reso più evidente un problema che già esisteva. Durante questa pandemia, quando per curare il Covid si è deciso di tirar via tutte le prestazioni non essenziali, sono saltati tutti i controlli dei malati cronici, controlli che sono fondamentali per diagnosticare precocemente delle complicanze di queste patologie croniche, che se diagnosticate precocemente possono essere curate adeguatamente, se no diventa un grosso problema. E il fatto di avere spostato, cancellato e riprogrammato tutta una serie di controlli fa sì che adesso controlli sono i primi posti disponibili per prestazioni molto importanti, come per esempio degli esami radiologici, degli esami ecografici, hanno tempi d'attesa di 6-8 mesi come minimo. Quindi questo ha creato un ulteriore problema, la pandemia ha accentuato quello che era già un problema precedente e l'ha accentuato rendendolo ancora più drammatico. Sì, esatto. È chiaro che deve cambiare la situazione. Assolutamente, ma non solo questo,

Queste bolle, più o meno amalgamate con il contesto esterno, portano con sé un potenziale molto forte. Possono infatti fare da collante tra individualità e gruppi che intendono cospirare contro il potere e rafforzare una coscienza che viene soprannominata dai giornali antagonista. Dunque pericolosa, soprattutto in un contesto pandemico come quello in cui ci troviamo. Perché lì possono circolare idee che sono in disaccordo con le decisioni che vengono prese ai piani alti e possono essere motore di pratiche che agli occhi di chi governa e ha come obiettivo il mantenimento dell'ordine pubblico possono diventare pericolose. Parliamo degli spazi occupati, liberati o autogestiti che dal momento in cui nascono sanno di essere scomodi e che possono venire sgomberati. Ma a volte capita che, per particolari congiunture, rimangano per anni e riescono ad esplicare il loro potenziale. Creano relazioni e danno impulso a lotte. In questo momento ci sono molti spazi in giro per l'Italia che si trovano sotto sgombero o sotto minaccia di sgombero. Verrebbe quasi voglia di definire questo attacco come sistematico, come ad esempio il Molino a Lugano. Oppure il Boccaccio a Monza o il Cappetto occupato a Teramo, che si trovano appunto sotto minaccia di sgombero da parte delle istituzioni cittadine. Ma chi lotta non si trova solo in città, c'è chi si unisce, si mette in gioco e rischia la propria libertà per difendere la propria terra, dove questa ancora si vede e non è coperta da cemento. Martedì è cominciato lo sgombero dell'ex autoporto di San Didero, occupato per mettere i bastoni tra le ruote all'ennesimo progetto legato alla costruzione della TAV in Val di Susa. Un enorme dispiegamento di polizia, camionette e ruspe ha invaso e militarizzato la zona intorno all'ex autoporto. E non senza resistenza da parte di moltissimi solidati, ha sfondato le barricate e si sono fatti strada fin sotto il tetto del magazzino, sul quale si trova ancora un gruppo di compagni che, stoici, resistono allo sgombero da ormai diversi giorni. Ogni giorno alle 18 è stato chiamato un appuntamento fisso al centro polivalente di San Didero e per questo weekend, da venerdì, si invitano tutti a recarsi lì. E nella zona infatti è stato chiamato un campeggio dove potersi organizzare e sostenere e continuare le iniziative di resistenza a San Didero contro i nuovi cantieri, uno dei nuovi cantieri della TAV. Ma riportiamo il nostro sguardo invece su ciò che succede in città. Infatti è importante che queste dimensioni rimangano sempre in dialogo e infatti ciò che succede fuori può anche dare impulso a qualcosa che succede invece in città. Sì, anche perché se attualmente, cioè se ora abbiamo parlato appunto di sgomberi fuori da Milano, in realtà a Milano qualcosa si è mosso nell'ultimo paio di settimane, ci sono state un paio di occupazioni. Gli studenti delle superiori hanno occupato il liceo Carducci, che si trova in via Venini all'angolo con viale Brianza, e un'occupazione che ha smosso un po' di più le acque è quella del teatro piccolo a Milano, che è stata nella mattina di sabato 27 marzo è stato appunto occupato il teatro Paolo Grassi di via Rovello, ribattezzato appunto il piccolo teatro aperto. Questa occupazione è stata fatta dal coordinamento spettacolo Lombardia e dai movimenti studenteschi all'interno di una giornata di mobilitazione nazionale riguardante i lavoratori dello spettacolo che appunto sono fermi da mesi a causa di tutte le norme sempre più repressive di questo governo per arginare la pandemia dovuta al Covid-19. Ricordiamo che in quel giorno lì, sabato 27 marzo, ci sono state tutta una serie di mobilitazioni non solo a Milano ma anche in tutta Italia. È stato occupato anche a Napoli il teatro Mercadante, ci sono stati dei blocchi stradali a Venezia e tante manifestazioni a Torino, a Roma ed in altre città. Ora, prima di sentire poi un compagno del teatro del piccolo, magari lanciamo una canzone e poi torniamo in diretta con l'intervista. Esatto, ci ascoltiamo Edith Piaf, Je ne regrette rien. Le bien se peye, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Allora, 21:11, torniamo in diretta con Mala Radio. Come detto, ora proviamo a sentire un compagno che fa parte del movimento e del coordinamento dello spettacolo Lombardia, che ha occupato il Teatro Piccolo a Milano il 27 marzo. Wait. Ciao, ciao, ci senti? Sì, ciao Pasqua, ti sento. Va bene, grazie. Basta con questa radio. Oh. magari ce la fate fare al teatro, dai. Vediamo. Niente, allora abbiamo un po' introdotto la questione, insomma, che ha portato all'occupazione del teatro il 27 marzo. Se ci vuoi spiegare un po' meglio e le motivazioni e tutto quello che sta facendo, insomma, il coordinamento dei lavoratori dello spettacolo della Lombardia da un anno a sta parte, insomma, fai tu, voce a te. Allora, ok, brevemente, diciamo che questo qui è un percorso che è nato un anno fa, quando c'è stato, vabbè, l'interruzione forzata del lavoro per lo spettacolo. È stata proprio totale praticamente per i primi mesi. Diciamo che è stata tra tantissime virgolette una fortuna, perché diciamo che il lavoro dello spettacolo è un lavoro completamente frammentato, visto che non è che abbiamo una fabbrica in cui andiamo. Cioè, ogni giorno ci troviamo in luoghi diversi dove lavorare, quindi poterci organizzare era impossibile prima di questa fase. Quindi un pochino verso marzo sono iniziati a nascere coordinamenti più o meno in tutta Italia, tra assemblee Zoom, un po' rivendicazioni poco consolidate, più che altro impressioni sulle ingiustizie che subivamo ogni giorno. Si è alla fine riuscito a creare un coordinamento pure qui in Lombardia. Niente, l'occupazione del Piccolo è l'ennesima, diciamo, iniziativa, visto che comunque siamo sempre stati attivi in quest'anno, visto che abbiamo fatto presidi in zona rossa, abbiamo fatto biciclettate in giro per la città, abbiamo fatto veramente di tutto. Poi il 23 febbraio, con una chiamata nazionale di tutti i coordinamenti territoriali sparsi sul territorio nazionale, noi il 23 febbraio abbiamo deciso di occupare un teatro vuoto. È stata un'azione che è nata e morta nell'ultimo giorno, è una TAZ praticamente. Dopo quell'azione lì abbiamo detto, vabbè, sul 27 marzo c'è un'altra chiamata nazionale. In Francia hanno occupato... ai tempi avevano occupato 80 teatri, oggi sono 104, mi sembra. Beh, vabbè, ci sembrava naturale in qualche modo ripercorrere quello che stavano facendo in Francia, anche perché noi, diciamo, come contenuti abbiamo come obiettivo quello di riuscire a raggiungere un sistema di intermittenza come quello francese, che poi magari provo a spiegare, un po' lungo quello. Quindi vabbè, 27 marzo abbiamo occupato il Piccolo Teatro, è stata un'occupazione assolutamente autonoma, ma che è andata veramente benissimo, perché è difficile, perché prima nelle assemblee organizzative diciamo, cioè non è che stiamo andando a occupare un teatro vuoto, stiamo andando a occupare un capannone, cioè stiamo andando a occupare un luogo che per il teatro praticamente è il Pantheon, cioè stiamo parlando veramente di uno dei teatri più importanti d'Europa, il più importante teatro di prosa d'Italia. E quindi ci siamo fatti un sacco di ragionamenti su non poterlo sbragare, cioè dover entrare in maniera educata. E alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo entrati. È arrivato il direttore del teatro che ci ha detto: vabbè, che devo fare? Cioè, tutti parlano di lavoratori dello spettacolo. Lui è stato eletto pure presidente del direttore del teatro piccolo con un sacco di critiche. Alla fine ha detto: vabbè, io solidarizzo con la vostra lotta, e ci ha lasciato lo spazio a tempo indeterminato. Quindi niente, adesso siamo lì dentro, facciamo, non so, ti ho visto, se qualcuno forse è passato, facciamo un sacco di iniziative, abbiamo cercato di ricreare praticamente un megafono per pure altri tipi di lotte, visto che comunque noi riusciamo a essere abbastanza mediatici e ci sembra comunque giusto uscire dal nostro settore e relazionarci pure con tanti altri tipi di categorie diverse di lavoratori sfruttati, perché poi il discorso sì è il lavoro dello spettacolo, ma non è che il problema è lavorare nello spettacolo, il problema è la precarietà che è collegata a tantissimi lavori come il nostro, oppure il lavoro dei rider e tantissime altre categorie. Le rivendicazioni adesso più o meno sono quello, vabbè, di un reddito di continuità per la nostra categoria, visto che comunque la crisi durerà tantissimo, cioè anche quando ci saranno le riaperture comunque ci sarà un vuoto lavorativo enorme e quindi insomma bisogna pure cercare di capire come risolvere quel problema. E poi vabbè, la proposta che facciamo è più o meno un manifesto politico che abbiamo scritto, che dovrebbe essere una proposta di riforma del mondo dello spettacolo, del come lavoriamo nello spettacolo, che visto che ci occupiamo di lavoro, uno deve agire sui contratti, sulle leggi che possono poi essere applicate ai contratti, ed è ovviamente una strada che bisogna per forza percorrere quando si parla di lavoro. Il problema tendenzialmente è quali strumenti uno utilizza per raggiungere quell'obiettivo. Noi, per quanto siamo un coordinamento variegato e dire poco, visto che c'è la qualunque qui all'interno di questo coordinamento, però ci siamo sempre, diciamo, dati delle pratiche, le abbiamo sempre portate a termine tutti assieme. Tant'è che abbiamo portato delle persone che non avevano mai pensato prima di occupare niente a prendere il piccolo teatro di Milano. Ok, allora abbiamo visto insomma dai social e dai vari canali che sono state fatte un paio di iniziative. Martedì 13 c'è stato un incontro sulla logistica dei fatti di Piacenza, la repressione dei lavoratori partendo dal Sicobas, no, arrivando poi, penso avete parlato anche un po' della situazione a Genova, e poi c'è stata la giornata della cultura scritta indipendente, dove sono intervenute varie realtà a Milano, tra cui la libreria Calusca, l'archivio Primo Moroni, Zero in Condotta, Ateneo Libertario, Eleutera, Sensibile alle Foglie, Shake, Agenzia X, Milo Edition, Mimesis, Booklet, eccetera, eccetera, eccetera, Laboratorio di Poesia, Poetry Slam, Aperta la Cittadinanza, e via dicendo. Invece oggi siete stati imbarcati, penso, probabilmente tutto il giorno, ancora in una replica, no scusa, non oggi, ieri o l'altro giorno, forse mi sto sbagliando, no, sempre era martedì 13, sì, la giornata della cultura scritta indipendente. Quindi volevo sapere se in programma avete altre iniziative, come vi state muovendo a livello per strutturare varie iniziative, per provare magari anche a coinvolgere altre persone, anche perché l'occupazione del teatro, per chi non lo sapesse e per chi ci ascolta in questo momento e non è di Milano, cioè il teatro si trova praticamente nel centro di Milano, a due passi dal Castello Sforzesco, in una traversina di Via Dante. Quindi volevo sapere un po' le iniziative che avete in programma per il futuro. Allora, noi domani siamo al 21° giorno là dentro. Poi vabbè, noi usciamo la sera, perché vabbè, pure a Napoli, dove i Sicobas sono occupati sempre per la questione dello spettacolo, pure lì alla fine hanno raggiunto questo compromesso. Vabbè, però alla fine quello che ci interessava era stare pure in quel luogo lì, essere legittimati da quel luogo, dalla storia di quel luogo, avere uno spazio in cui incontrarci, perché quello poi è fondamentale, visto che dopo tutti subiamo un pochino quel problema lì di come organizzarci, dove organizzarci, di come riuscire a fare un'iniziativa aperta al pubblico, come farla in sicurezza. Noi vabbè, lì abbiamo un chiostro dove facciamo entrare 60 persone, perché più o meno abbiamo calcolato come se fosse un palco, più quante persone riescono a stare lì, diciamo, senza tenendo conto pure dell'aspetto sanitario, e quindi riusciamo ad avere un continuo scambio. Quindi le iniziative che facciamo in realtà sono state già tantissime, perché facciamo più o meno uno o due incontri pubblici al giorno, più uno o due assemblee sempre al giorno, tra quelle che riusciamo a fare online, ad esempio con le altre occupazioni che c'è in Francia, a Napoli, adesso pure a Roma, e poi le assemblee che facciamo interne. Pure lì, se uno va a vedere quello che si fa all'interno di quel teatro, c'è veramente la qualunque, cioè da puoi trovare dall'archivio Primo Moroni ai Sicobas fino a che cacchio ne so, cioè Agnoletto che parla di sanità, perché così è un movimento pure difficile starci dentro, lo dico io, personalmente è difficile perché comunque si ragiona sempre con persone che non parlano la stessa lingua, per noi significa la stessa lingua politica. Parlando poi con i Sicobas, quando sono venuti, si capisce che per loro la stessa lingua invece è proprio la stessa lingua, visto che si rapportano molto con lavoratori migranti, e poi loro hanno molto spesso dei problemi iniziali per riuscire a intendersi. Noi diciamo che siamo in questo equilibrio nel quale cerchiamo di far prendere più a destra, tra virgolette, o più a sinistra tutte le varie iniziative. Noi adesso abbiamo in programma domani, montiamo tipo un piccolo palco da davanti e facciamo un soundcheck, ma senza musicisti, lo facciamo solo come tecnici, tramite virtual soundcheck, utilizzando delle registrazioni che già abbiamo, e faremo questa roba qui più o meno per spiegare che comunque i palchi possono suonare anche senza i musicisti, perché l'importante è che ci siano le maestranze dietro, che sono in grado di costruire quei palchi lì e di farli funzionare. Domani a che ora poi, questa iniziativa, scusa? Domani alle 18... Invece la mattina c'è un incontro con le piccole e medie compagnie teatrali. Oggi ad esempio c'è un incontro sul teatro lirico, dove c'erano i direttoroni dei vari teatri lirici, ma anche perché lì, essendo una questione lavorativa, ed essendo comunque noi lavoratori molto ricattabili, stiamo comunque utilizzando pure questa fase qui per riuscire a parlare con le controparti, ma in maniera più tutelata. Cioè magari se c'è l'incontro sul teatro lirico, il fatto che io lavoro nei concerti mi posso esporre molto di più di un lavoratore che lavora invece in quegli ambienti lì. E quindi stiamo comunque portando avanti pure queste pre, tra virgolette, cioè come quando, che ne so, su una fabbrica si cerca di contrattare qualcosa, noi stiamo ricreando quella specie di spazio però all'interno di questo teatro, perché veramente il fatto di essere così frammentati e così ricattabili per proprio le nostre condizioni contrattuali e per la nostra discontinuità, che è assolutamente irrisolvibile da alcuni punti di vista, cioè, cerchiamo comunque di utilizzare tutto questo tempo qui per fare quello che in tempi normali non si potrebbe fare, perché siamo pure sicuri che se ci dovesse essere una ripartenza adesso del mondo dello spettacolo, perderemmo tantissimi pezzi, per chi tornerebbe a lavorare a prezzi sicuramente molto, a paghe molto più inferiori di prima, condizioni sanitarie scarse, tutto il resto. Cerchiamo di sfruttare ogni giorno che abbiamo a disposizione adesso per comunque cercare di almeno di gettare le basi per una coscienza politica, una sensibilità politica minima, condivisa, che poi crescendo si spera possa diventare una linea politica un po' più consolidata. Comunque sì, delle iniziative poi veramente difficile, perché giorno per giorno arrivano in continuazione proposte, idee, cerchiamo di... cioè è veramente non saprei neanche dirti cosa facciamo settimana prossima. Sicuramente andremo quindi noi al Globe Theater, che è stato occupato a Roma, per un'assemblea nazionale, e per il resto vedremo, lo scoprirò domani forse. Questa è una cosa molto, molto positiva, perché diciamo in questo momento, tra virgolette, di morte sociale determinata da tutta la situazione pandemica, tutta una serie di iniziative comunque riguardanti appunto lo spettacolo, stanno in sostanza ravvivando anche Milano, il centro di Milano. Io ti volevo fare un'ultima domanda prima di lasciarti e salutarti, e tra l'altro poi dopo mandiamo un pezzo di un nuovo gruppo punk hardcore appunto di Milano, dove c'è un batterista bravissimo. Però volevo chiederti, nel la prima occupazione che, dell'altro teatro, dove c'è stata una TAZ, in sostanza, sì. Siete entrati il primo giorno e poi siete usciti. E anche in questa, diciamo, le occupazioni sono state portate avanti, oltre che dal coordinamento dei lavoratori dello spettacolo, anche dai movimenti studenteschi. Mi interessava chiederti e capire quale fosse l'interazione, insomma, che avete avuto, insomma, con gli studenti. Beh, l'interazione è partita quando abbiamo fatto la Cultural Mass, che era questo, erano queste Critical Mass, diciamo, che al centro avevano il tema un po' della cultura del lavoro. Quando abbiamo fatto la prima edizione ci hanno scritto un po' degli studenti che hanno detto: vabbè, se parliamo di cultura parliamo pure di scuola, parliamo pure di noi che potremmo essere, visto che magari molti erano studenti delle accademie, potremmo essere un domani lavoratori della cultura. E quindi in maniera molto naturale siamo riusciti a organizzare alcune cose assieme. Poi, dopo con la Cultural Mass, sinceramente, cioè, questi studenti comunque avevano pure bisogno di riuscire a organizzarsi in qualche modo, e anche noi avevamo bisogno comunque di loro, perché insomma, cioè, con delle persone magari di 50 anni che non hanno mai fatto una lotta minima, no? Era difficile pure spingerli un po' più, un po' oltre, mentre invece questi studenti, cioè, volevano fare tutto il necessario, tutto quello che sembrava comunque accettabile dopo svariate assemblee. E quindi abbiamo fatto, vabbè, quell'occupazione lì il 23 febbraio, che era stata in realtà simpatica, perché con questi studenti abbiamo fatto tipo i corsi di scenotecnica, i corsi di audio, abbiamo spiegato più o meno il nostro mestiere, che non tanto quello degli artisti, ma più quello delle maestranze, visto che sono mestieri che magari chi non li vive, non li capisce. E abbiamo fatto questo. Poi, quando è uscita l'idea del piccolo, praticamente niente, cioè loro erano impazziti, cioè volevano fare questa roba qui, e l'abbiamo fatta assieme, è andata bene. Poi, insomma, secondo me sia noi che loro, comunque noi ci siamo dati, diciamo, quello spazio lì, lo vediamo come spazio necessario fino a quando non riusciamo più o meno a consolidare i rapporti pure con altri coordinamenti nazionali e tutto il resto. Però gli studenti, secondo me, lo vivono invece molto più come l'acquario che potrebbe rischiare di diventare quel posto, perché alla fine, dopo che entri al piccolo, il direttore del piccolo ti dice: ok, puoi rimanere, niente, è già pacificata un po' la questione, perché tu sei lì, fai le tue cose, niente, non sei più in giro, non fai più i presidi, diventa difficile pure riuscire a in qualche modo a mettere pressioni. Però, ad esempio, grazie agli studenti che hanno avuto un'idea che era veramente interessante, abbiamo portato una nave, un relitto di nave, che è una scenografia di un teatro, una scenografia ancora non andata mai in scena, e grazie a quella scenografia abbiamo potuto fare in centro un corteo con 200 persone, 250, non mi ricordo neanche quanto eravamo. Cioè, grazie veramente al fatto che noi abbiamo preso più o meno il nostro mestiere e abbiamo comunque rivendicato il fatto che sì, che non ti possono fare i cortei adesso, ma tu come fai a fermare veramente una lotta che è sacrosanta? Cioè, non lo so, è una roba che proprio, se vai in giro e dici a una signora qualsiasi: vabbè, ma cosa pensi della lavoratore dello spettacolo? E quella dice: stanno soffrendo tutto il resto. Quindi, insomma, abbiamo mischiato sia gli studenti, sia il nostro mestiere, che comunque è quello pure dello spettacolo, e poi una pratica che in questo momento qui vediamo che risulta praticamente impossibile, no? Nulla, non lo so, secondo me questa qui è un'esperienza che è complicata da capire per chi sta all'esterno, e è complicata pure da digerire per chi sta all'interno, però è necessaria, cioè, perché è un settore lavorativo che non si è mai mosso in maniera compatta, in maniera unitaria, e se non si prova a fare un tentativo adesso, che c'erano un po' le condizioni, non si farà mai. Quindi è fondamentale, non lo so, perché, cioè, se una persona, il lavoro è quello che è, cioè il lavoro non è la vita di un essere umano, però certe, cioè, volte pensi pure che quel lavoro lì lo devi fare in qualche modo, e tanto vale cercare di portare pure le proprie esperienze di lotta, pure i propri ideali all'interno di quel mondo lì. Poi quello che succederà, in realtà, secondo me, è un po' presto per dirlo, perché dopo un anno è ancora presto. Bisognerà capire pure quando le cose inizieranno ad andare peggio, perché per adesso nessuno si sta, diciamo, si sta esprimendo contro queste mobilitazioni, tant'è che siamo andati pure in chiesa l'altro giorno, per fare un'azione provocatoria, un concerto all'interno della chiesa, il parroco ci ha visto e ci ha detto no, bravi, avete ragione, effettivamente perché le chiese sono chiuse, le chiese sono aperte e i teatri sono chiusi. E quindi, riprendendo una cosa che è successa dalle tue parti, mi sembra, no? Che a Pasqua è uscito lo striscione Italia bigotta e clericale, in questo caso l'Italia è bigotta clericale ed è pure ipocrita, perché a Giulianova era successa questa cosa qui, noi sull'onda di quella roba lì abbiamo detto vabbè, ma andiamo in chiesa a sto punto, cioè se lì si possono fare i concerti andiamo a farli lì, e invece no, cioè pure quella cosa lì alla fine ha detto no vabbè vabbè, bravissimi, volete fare altre due chiese, cioè è una cosa incredibile. Quindi adesso diciamo va tutto bene, bisogna capire piano piano, perché finché si parla di cultura, la cultura alla fine, per quanto non gliene freghi un cazzo a nessuno, però nessuno si esprime contro, cioè è difficile, però quando veramente parleremo di lavoro e cercheremo veramente di rivendicare dei diritti sul nostro posto di lavoro, lì secondo me cambierà tutto, la percezione sia nostra che della controparte. Va bene, dai, molto bello il tutto e speriamo che comunque le prospettive di lotta vadano in un lato positivo. E niente, ti ringraziamo per il tuo intervento e niente, mo mandiamo un pezzo dei Tenia, Troppo distante. Non so se ti piacciono. Grande. I Tenia. Ti piacciono? A me tantissimo, cioè autoreferenziali. Quanti lavoratori dello spettacolo? Cioè a me piacciono i Tenia e i lavoratori dello spettacolo. Va benissimo, dai. Un saluto dai compagni e dalle compagne di Mala Radio e alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E quindi niente, ora ci sentiamo Tenia, Troppo distante, il nuovo gruppo punk hardcore che gira per Milano. Continuiamo con le lavoratori, le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici e anche nelle prove delle puntate precedenti, dove troverete podcast di alcune interviste, abbiamo parlato delle lotte dei facchini della FedEx TNT. E anche oggi volevamo un po' raccontare, aggiornare sulla situazione di lotta di questi lavoratori del Sicobas. Sono ormai tante notti che da Milano a Napoli continuano scioperi duri, blocchi, dove sono coinvolti centinaia di operai. E anche ieri in provincia di Napoli, di Torino, di Roma, e di Milano, a Milano a Peschiera Borromeo precisamente, hanno fatto degli scioperi perché sempre per far rispettare gli accordi sindacali che avevano pattuito Sicobas e Fedex TNT e per riaprire la sede di Piacenza chiusa alla fine per eliminare gli operai che si sono rivoltati per non far diventare le proprie condizioni di lavoro di schiavitù. Quello che è successo nelle varie sedi della FedEx è stato diverso, sia a Napoli hanno avuto la solidarietà dai lavoratori iscritti ai sindacati confederali, a Torino invece si sono coordinati con le altre sedi della provincia torinese, a Roma hanno fatto un'assemblea davanti ai cancelli della sede della FedEx, invece a Peschiera hanno trovato la repressione dello Stato ad accogliere i lavoratori in sciopero. 7 camionette di agenti in assetto antisommossa erano presenti contro gli scioperanti. Questo perché, come dicono anche nel comunicato Sicobas, c'è proprio una collaborazione dello Stato, della repressione statale con gli interessi della multinazionale americana FedEx TNT. Questo aggiornamento della lotta dei lavoratori della FedEx TNT è anche per annunciarvi, ricordarvi, comunicarvi che domani 16 aprile appunto ci sarà una manifestazione a Roma sotto il Ministero del Lavoro dalle 10 appunto contro la chiusura della sede di Piacenza. Questo è per protestare contro le condizioni di lavoro che FedEx e NT vogliono imporre ai lavoratori, perché sempre più ricalcano quelle del modello Amazon, appunto, come chiamano, così lo chiamano anche il sindacato del Sicobas, e denunciando anche il collaborazionismo dei sindacati confederali, della cosiddetta burocrazia sindacale, come la chiamano loro. Ma a Milano e dintorni appunto c'è qualcosa che si smuove. Settimana scorsa c'è stata anche una protesta da parte dei mercatari, soprattutto di quelli insomma che vendono solo i vestiti ed erano impossibilitati in zona rossa appunto a provare ad andare a lavorare e portare i soldi a casa per mangiare, e niente, c'è stata una mobilitazione di vari furgoncini che si sono mossi per delle vie abbastanza principali di Milano, hanno provato a stare in Corso Buenos Aires, c'è stata una risposta quasi immediata da parte delle forze dell'ordine, nel senso che probabilmente avevano annusato che i mercatari volevano andare a protestare sotto la prefettura in Corso Monforte, Corso Monforte, quindi l'entrata da Viale Biancamaria e l'altra entrata dalla circonvallazione interna, ora non mi ricordo il nome esatto, comunque era presidiata da camionette di celere, di carabinieri e polizia. Qualcosa si smuove, e però anche gli sbirri diciamo che ogni tanto si infastidiscono se la gente prova ad assembrarsi o prova a fare un video rap o trap, no scusa, io rap e trap sono un po' ignorante, non conosco bene, mi puoi spiegare meglio? Era trap. Allora, praticamente sabato scorso sui social girava un video in cui ci sono tanti ragazzi. I giornali subito hanno scritto di questo evento e che erano 300 e senza mascherina, ci tengono a precisarlo. E tra loro, tra questi ragazzi in piazza, uno dice: oh raga, se arrivano gli sbirri nessuno scappa. Il quartiere San Siro, i ragazzi erano lì per un nuovo video di un rapper, di un trapper, scusate, mi hai confuso. Trap, mi sono confusa. Lui è Neyma Ezza. Il pezzo si chiama Casa, e gli sbirri arrivano davvero, 5 camionette per un video trap. Gli sbirri arrivano davvero e si prendono sassi e bottigliate, e nessuno effettivamente è andato troppo lontano dalla piazza dove veniva girato il video. La piazza è Selinunte, al centro di San Siro, della San Siro Popolare, ed è la piazza dei ragazzi e non degli sbirri, che come spesso dicono nei brani trap, odiano le guardie. Sì, tra l'altro il video dovrebbe uscire proprio questa sera a mezzanotte, insomma, quindi ce l'hanno fatta. Però Neyma Ezza è stato anche denunciato, è stato denunciato per manifestazione non autorizzata, perché è stato individuato come organizzatore. E questa è una dinamica repressiva molto tipica, insomma, questura, sbirri, Digos non si spiegano mai come tante persone, tanti giovani, tante lavoratrici, persone normali abbiano voglia, bisogno di lottare, di scendere in strada. Questo non se lo riescono mai a spiegare, o forse in qualche modo li turba molto, soprattutto in questo periodo. E quindi, come sempre, ma ancora più del solito, si crea questa dinamica repressiva per cui qualcuno, un singolo, un gruppo deve sempre essere in qualche maniera, no, individuato come organizzatore. E quindi è stato denunciato per manifestazione non autorizzata. Tra l'altro, insomma, su questo andrebbe fatta un po' una riflessione in generale, ma soprattutto in questo periodo, perché in realtà le manifestazioni autorizzate in qualche misura continuano. Abbiamo visto per le strade set di film dove venivano investiti miliardi di euro, ma certo, quando poi un ritrovo, un raduno, un incontro non è autorizzato, sono là che nascono i problemi. E questo viene anche da anni e anni di un discorso sul decoro, di normative securitarie, dai DASP urbani fino alle ordinanze, ai divieti. E insomma, abbiamo visto che in questo periodo il più piccolo raduno, raggruppamento, insomma, ha suscitato un po' di delazione, un po' di scusa per reprimere ancora di più, e questo soprattutto sui giovani, no? Sì, esatto. A quanto pare, anche solo scorrendo la sezione notizie di Google, le baby gang e, diciamo, la criminalità giovanile, come la chiamano loro, è, diciamo, uno degli argomenti preferiti e principali dell'ultimo tempo. Come tra l'altro a Gallarate, no? C'era stata quella maxi ris e sono arrivate un paio di settimane fa tutta una serie di misure cautelari. Per chi non lo sapesse, a Gallarate c'è stata una rissa tra giovani, circa tra i 100 e i 150, dice la questura. Noi non lo sappiamo, non ci interessa dare numeri, però insomma, questi giovani un po' esagitati, probabilmente stufi di lockdown, didattica a distanza, si sono ritrovati in strada. C'è stato un po'... È scoppiato il pieno. Un po' di rissa sportiva, diciamo. Dai, è colpa dei giovani, è sempre colpa dei giovani, assembramenti, tutto, no? Esatto, senza mascherine, chissà, appunto il lockdown, poi appunto si spendono sempre in grandissimi viaggioni di fantasia, chissà cosa sarà successo a questi giovani. E nel frattempo però non perdono l'occasione per criminalizzarli ogni volta. E appunto in questo contesto... E abbiamo notato come essere giovani a Milano e in Italia non è più una gran cosa, a quanto pare, non è più così divertente. Sì, anche perché credo si sia ancora più incentivata dopo le giornate che a fine ottobre hanno caratterizzato un sacco di città, Napoli, Torino, Firenze, Milano, con tantissima gente in strada, gente che aveva voglia, bisogno di rivoltarsi, e con tantissimi giovani, no? E quindi insomma anche qui una bella energia, e a cui è prontamente seguita la repressione. Per esempio per i fatti di Torino, inizialmente c'erano tutti gli arrestati, erano accusati di devastazione e saccheggio, poi il giudice di Torino ha deciso che non convalidava il discorso della devastazione e saccheggio, ma invece è rimasto per 13 minorenni e per un ragazzo che invece era sotto il tribunale di Ivrea. Quindi insomma anche un'accusa molto pesante, sempre seguita, diciamo, da questo stupore, perché magari qualcuno si è voluto andare a riprendere qualcosa nei negozi di Gucci e Louis Vuitton. No, tra l'altro sempre a Torino Repubblica annunciava trionfante che ai genitori con reddito di cittadinanza i cui figli erano indagati per i fatti di ottobre sarebbe stato tolto il reddito, così da fargli capire che non avevano educato bene i loro bambini. Un bel ricatto, no? Come quando vanno a cercare a prendersi i ragazzi minorenni nei quartieri popolari e però poi sgomberano le famiglie, insomma, è un ricatto non da poco, no? Tra l'altro non solo sgomberano le famiglie, ma entrano a gamba tesa nella vita privata dei ragazzi, li sospendono da scuola e appunto li proprio sottraggono da tutto il contesto di amicizie, relazioni, vita quotidiana, e come se volessero estirpare appunto i giovani, i ragazzi, e truncare la loro vita sul nascere. Però la cosa bella è che comunque credo che i legami, insomma, i rapporti che si creano tra i ragazzi, che si creano nei quartieri, non sono così deboli da farsi spezzare da questo. E insomma, poi ci sono anche dei richiami che vanno anche al di là delle frontiere. Infatti, insomma, queste cose non succedono solo a Milano e non solo in Italia. Anche in Francia ci sono state tantissime persone che si sono radunate sempre per un clip rap. A Moselle anche lì è intervenuta la BAC. Tra l'altro ora hanno anche tutti questi nuovi dispositivi trap. Era trap. Oh no! Non ti volevo interrompere, ma era trap. Sì. Vabbè, poi dopo ci faremo un po' di studi. Magari andiamo a San Siro a beccare, ci facciamo spiegare due Sarebbe cose. Il mio sogno. E niente, però insomma anche con questi strumenti che veramente adesso anche per un video musicale comunque la zona era sorvolata dai droni, insomma comunque sono anche dispositivi che vengono messi in campo, per non parlare di quello che è successo a Barcellona quando è stato arrestato il rapper, e questo l'ho controllato, catalano Pablo Hassel, e vabbè è stato arrestato, aveva già avuto vari, insomma, a che fare con la giustizia, vari guai, perché comunque è anche un militante, e l'hanno arrestato per ingiuria alla corona, insomma, che è questo reato che, come giustamente è stato fatto notare, poi si lega molto anche a tutta la storia della Spagna, del franchismo, e per apologia del terrorismo. Il suo arresto ha suscitato anche scalpore perché sono andati a prenderlo in università. Insomma, sono scoppiate tantissime proteste, sì per la libertà di espressione, per l'indipendenza, ma io credo che, come vediamo sempre più spesso, poi quando le persone, i giovani, si incontrano, si rivoltano, si trovano in strada, va sempre al di là di una singola rivendicazione, di una singola questione, di un singolo problema, e quindi le persone erano con tantissima energia in strada contro la stampa, contro la polizia. Anche lì c'è stato un momento simil Torino, diciamo, di riappropriazione, perché c'è questa via lussuosissima a Barcellona, il Passeig de Gracia, e con queste vetrine super lussuose, insomma, diciamo che alcune di queste hanno ancora dei pannelli davanti o qualche incrinatura che non sono ancora riuscita ad aggiustare. E insomma, quindi le persone forse non sono più così disposte a restare passive, forse hanno voglia di dire basta insieme, e anche davvero vediamo sempre più momenti che non si riassumono solo in uno slogan. Queste rivolte per l'arresto di Pablo Hassel non sono state solo a Barcellona, ma principalmente lì, anche perché era originario di quella città, ma insomma poi nella città anche nel 2019 c'erano state delle rivolte per le condanne contro i leader indipendentisti, ma insomma anche in quel caso poi la questione andava molto al di là di una specifica, no? E insomma crediamo che in questo periodo siano anche un po' notizie che danno forza, perché davvero è un po' tutto il mondo in cui viviamo a cui forse vogliamo dire basta. Però adesso ascoltiamoci nei Mezzano. Esatto, quindi adesso facciamo un piccolo stacchetto musicale, mentre attendiamo che esca la nuova canzone di Ney Maeza, A casa a mezzanotte, ci ascoltiamo invece Routine. Guardo fisso il vuoto, scattami una foto, ricordati il ricordo, metà fatto, metà sbronzo, l'abisso pure il mondo pure il fondo, e se un giorno io sfondo giuro che non mi scordo. Sono stato stronzo, non volevo, sospiro di sollievo, vendo i pezzi, perdo peso, sono a pezzi come il Lego, Jack Daniels quando bevo, situazioni che non spiego, sono triste, finto allegro, in questo schifo non c'è nego. Guarda dritto nei miei occhi, grida forte quanto odi, questa strada rende forte il minorile un po' più folli. Sento voci di balordi, cocaina e tanti soldi. Routine tutti i giorni, aspetto solo quando torni. Vivo la vita come in un film, qui sempre come in un film, sì sempre come in un film. Vieni a togliermi presto da qui, da sto schifo, sta routine, finti amici e queste bitch. E ogni giorno si ripete, sempre fame pure sete, non si arriva a fine mese, una routine. Le persone le ho un po' perse, le espressioni sono perse, tutt'oggi odio a morte la police. Vorrei solo fossi qui, i miei amici sempre free, intrappolati qui nella routine. Stesse cose, stesso film, stesse case, stessi kiss, e tutt'oggi odio a morte la police. carico la roulette russa. La madama che ci bussa, una roulotte mi fa da casa oppure dormo su una ruspa. Freddo tipo l'Alaska, freddi come la Russia. Piangi nuda nella vasca, la cella che si è chiusa. Vivo intrappolato in ansia, ho gli occhi chiusi Asia. Il mondo prende pausa, tranquillo tutto passa. La gente è sempre falsa, non ne fai a meno. Avevo i grammi nella calza, le tasche senza un euro. E ho giurato, non confesso a questo giudice. Il successo non ci monta, sono giù da me. Fanculo Giuda, resto in strada con il fer. Ti abitui spesso a star routine senza di me. Vivo la vita come in un film, qui sempre come in un film, sì sempre come in un film. Vieni a togliermi presto da qui, da sto schifo, sta routine, finti amici e queste bitch. E ogni giorno si ripeto, sempre fame pure sete, non si arriva a fine mese, una routine. Le persone le ho un po' perse, le espressioni sono perse, tutt'oggi odio a morte la police. Vorrei solo fossi qui, i miei amici sempre free, intrappolati qui nella routine. Stesse cose, stesso film, stesse case, stessi kiss, e tutt'oggi odio a morte la police. Libertà per gruppi Arum. 1, 2, Esatto, la libertà per i gruppi Yorum. Gruppi Yorum è un gruppo musicale turco che da ormai molti anni non può più suonare in tutta Europa perché è considerato un'organizzazione terroristica, perché è da sempre simpatizzante con la sinistra rivoluzionaria turca. Per questo alcuni membri di questo gruppo musicale hanno fatto uno sciopero della fame per protestare per questa situazione, per questa mancanza totale di libertà d'espressione, e tre membri dei gruppi Orm sono morti per lo sciopero della fame. E direi, grazie alla banda degli Ottoni, che ricorda e che celebra questo gruppo. La banda degli Ottoni che diciamo che ci fa compagnia e aiuta le iniziative di tutta Milano e non solo. Però il 7 dicembre 2014 succede qualcosa in Piazza della Scala. Vengono denunciati per resistenza pubblico ufficiale. E indovina con che cosa si sono difesi? Cosa si sono difesi? Con gli strumenti musicali. Con gli strumenti musicali possono essere pericolosi. per almeno due di loro che sono stati condannati con un reato senza menzione comunque di resistenza pubblica ufficiale. Adesso comunque ce lo faremo spiegare da uno dei due condannati. Sentiamo. Pronto? Pronto, mi senti? Pronto, mi senti? Sì, tu? Io sì, benissimo. Ciao, ciao, benvenuto a Mala Radio. Un saluto da tutti gli amici qua. Ma spiegaci bene che cosa è successo il 7 dicembre 2014 a Piazza della Scala. Beh, Piazza della Scala quel giorno, come tutti i 7 dicembre, ci sono le proteste, quasi sono diventate una tradizione, no? Da 40 anni a sta parte, contro appunto i potenti che si presentano alla prima della Scala, e noi eravamo lì perché come Banda degli Ottoni, che spesso sempre va il 7 dicembre, ma anche per quanto mi riguarda come lavoratore della Scala che denunciava attraverso il comitato che abbiamo costituito di ex esposti all'amianto alla Scala, denunciava al mondo intero l'apertura di un'inchiesta che parlava dei morti tra i lavoratori, artisti, musicisti, cantanti, insomma, nasceva un'inchiesta che poi è diventato un processo e a fine mese diventerà una sentenza, noi speriamo di condanna nei confronti dei dirigenti di questo teatro che hanno appunto provocato la morte, sì, nel processo parla di 10, ma ormai sono più di 20 lavoratori che sono morti a causa di aver respirato l'amianto alla Scala, soprattutto negli anni 70, 80, 90, 2000, e quindi eravamo lì soprattutto per quel motivo lì, come lavoratori. E poi è successo semplicemente che, siccome c'era anche la questione Expo e c'era parecchia tensione, perché i giorni prima ci furono parecchi sgomberi a Milano e parecchie provocazioni nei quartieri di periferia da parte delle forze dell'ordine, sgomberi ALER, eccetera, c'era parecchia, insomma, c'era un po' di gente che è arrivata in piazza e incredibilmente la piazza si è assembrata, che è un termine tremendo oggi, però una bella piazza con tante persone, però era anche bella, è diventata a un certo punto un po' tesa, perché prima di entrare in piazza ci sono stati evidentemente dei tafferugli, degli scontri per riuscire a sfondare, entrare, e infatti incredibilmente i manifestanti sono entrati dalla galleria, c'era tanta polizia proprio assiepata, oltre a quella tradizionale, i 3.000 che si presentano in tutte le forme diciamo divise quasi a farsi il defilé alla Scala, c'erano anche tante polizie antisommossa proprio attaccate a ridosso di Piazza Scala, quindi era molto schiacciata la piazza. E niente, semplicemente c'è stato a un certo punto un ragazzino che si è messo a urlare aiuto aiuto, e a prima vista sembrava appunto potevano essere anche come dice scazzi fra componenti rivali di vari compagni eccetera, non so, centri sociali, insomma, a parte quello, cioè, c'è stato questo momento in cui ci siamo messi in mezzo per evitare che questo ragazzino venisse in qualche modo trattenuto, comunque aggredito, e quindi una scena che è durata 60 secondi, dove ci siamo messi in mezzo io, Gianca e altri compagni per dividere questa scena, poi quindi alla fine il ragazzino poi è andato via, scappato, insomma, 4 anni dopo ci è arrivata la notizia di essere appunto accusati per di resistenza pubblica ufficiale e favoreggiamento, perché secondo appunto l'accusa avevamo di fronte polizia borghese e il ragazzino in realtà aveva in mano una Molotov, e noi quindi abbiamo impedito l'arresto di uno che aveva la Molotov. Quindi Quindi è nato un processo nel quale non... Quello che si inventa, no, dico, quello che non si inventano per portare avanti delle accuse anche contro chi è presente nel... No, a un certo punto, no, la scena è stata ridicola, ma ricordo, perché a un certo punto uno a distanza di 2 metri fa, ha tirato fuori da un giubbotto una corona, infatti noi la chiamiamo inchiesta Corona Digos, perché è una corona con uno pezzo di straccio che usciva fuori, diceva, ciao, ma chi è? Insomma, questa corona in realtà, secondo loro, era una moto, però è nato tutto un processo costruito con la ripresa di 16 telecamere presenti in piazza, da tutti i tetti, tutti i palazzi, più quelli in borghese che erano in servizio lì, quindi 16 operatori, ci hanno praticamente fatto era un set cinematografico, e sulla base di questi video montati, chiaramente montati a rallenti, in cui a un certo punto, secondo, nell'accusa, c'era scritto che io brandivo il sassofono, come si è capito, perché chiaramente a rallenti tu vedi uno che si avvicina a un tizio per dividerlo, a rallenti sembra che cosa. Quindi tutta una costruzione pazzesca. Scusa. Fino a pure un secondo, grazie. No, dicevo... Nonostante 5 testimoni, perché sono riuscito a distanza di anni a ritrovare 5 testimoni che hanno potuto dire quanto quella scena fosse appunto assolutamente innocua, il fatto che ci accusavano di sapere che noi, che quelli erano poliziotti, che noi conoscevamo, cioè scene tipo che noi, l'accusa dice, noi sapevamo che quelli erano poliziotti, che conoscevamo il tipo, che quello, insomma, tutta una costruzione, un castello di accuse. E nonostante i nostri 5 testimoni, che diciamo praticamente l'esatto opposto, ci hanno condannato appunto 5 mesi con la condizionale, e chiaramente tra le motivazioni della sentenza c'è una piccola parte che però dice anche che nonostante noi abbiamo preso queste riprese, abbiamo potuto a prendere queste ore e ore di girato e far vedere che non c'è stata solo quella situazione, ma c'è stata poi tutto un'ora e mezza di banda che suonava tra i manifestanti e a pochi metri dalla polizia, che ci hanno fatto un'interposizione pacifica suonando per evitare che scoppiassero dei casini in quella piazza che era così circondata, che le persone che erano dentro, se partiva qualche carica o qualcosa, sarebbe stato molto molto pericoloso. Noi ci siamo adoperati per evitare affinché avvenisse questa cosa, che poi in realtà poi alla fine è successa una carica, però fortunatamente diciamo la piazza si era svuotata di tutte quelle famiglie, di tutto quel popolo che viene lì, sai, per guardare eccetera, con i carrozzieri, bambini eccetera, quindi la situazione, quindi abbiamo fatto un'opera di distensione notevole, e manco appunto giusto 2 righine su 8 pagine di sentenza che ammette che i due si sono sbattuti comunque per evitare questi scontri. E poi ovviamente la classica sentenza in cui dice no, perché la banda di Ottoni merita, cioè tutti gli abbiamo portato, sai, tutti gli attestati, l'Ambrogio, tutte le benemerenze eccetera eccetera. Posso farti, sì, posso farti una la domanda? La banda è brava, ma quei due no. Scusami se ti interrompo, volevo farti una domanda. Intanto una constatazione, è strano che a Milano da una parte vi si dia l'Ambrogino d'oro, voi siete stati, voi avete avuto l'Ambrogino d'oro, giusto? Nel 2000 sì, e, sì. Nel 2012. E poi dopo neanche 2 anni nella stessa città siete stati praticamente tra virgolette condannati. Quindi questa è l'assurdità dell'istituzione, no? Non sei d'accordo? Sì. È un'altra cosa, volevo una roba un po' assurda, ecco. La troviamo abbastanza per certi tratti ridicola, insomma. Esatto. Se fosse Dario Fuoci avrebbe già fatto uno spettacolo molto divertente. Esatto, poi un'altra domanda volevo farti. A questo punto, dopo la condanna ai 5 mesi, come pensate di agire voi come Banda degli Ottoni a Scoppio? Che cosa, voi due soprattutto, e voi come banda? Noi abbiamo fatto, come banda abbiamo fatto un'opera di abbiamo tentato di far conoscere il più possibile questa storia, anche perché ad esempio cose simili non succedono solo a noi. Ad esempio sabato prossimo davanti al Piccolo manifesteremo un'azione antifascista davanti a quella lapide che appunto ricorda che il Piccolo Teatro è stato un luogo di tortura per i partigiani a causa della Ettore Muti, a dire che il coro di Carpi, i Violenti Piovaschi, sono in attesa di una sentenza che li vuole condannare perché 26 compagni, tra cui loro, hanno manifestato contro una manifestazione probabilmente anche non autorizzata di Forza Nuova a Carpi, e sono stati condannati per aver cantato Bella Ciao in modo non autorizzato. Quindi ci abbiamo dei compagni che sono a processo perché hanno cantato Bella Ciao, quindi il livello è questo qua. In Italia non capita solo a noi, vabbè. Quindi noi suoneremo a misura solidarietà, quindi cioè, come noi abbiamo fatto conoscere questa storia, dobbiamo far conoscere quello che succede di assurdo in questo paese. Noi paradossalmente con questa condanna che abbiamo ricevuto in questo processo abbiamo aperto gli occhi nei confronti di una macchina giudiziaria che continua in modo imperterrito a Milano, ma non solo, in tutta Italia, a colpire, a fare repressione nei compagni, quelli più attivi, quelli gli antifascisti, quelli che si impegnano, che anche, cioè, soprattutto pacificamente, no? Quindi bisogna evidenziare che c'è questa macchina repressiva, e bisogna denunciare che cioè, è una macchina infernale, assurda, che deve essere arrestata, perché come al solito è ferrea contro gli antifascisti, e poi vai a vedere nei confronti di questi Forza Nuova, Casa Pound e Compagnia Bella, sono sempre di mano leggera. Quindi è assurda questa situazione, è poco conosciuta, ed è giusto che anche in questo caso, attraverso appunto il nostro agire, il nostro essere abbastanza anche conosciuti, diciamo, fare conoscere che esiste anche questa realtà, e quindi dobbiamo batterci per difendere tutti gli antifascisti che tutti i giorni si battono, si presentano coraggiosamente nelle strade. Ecco. Sicuramente lo faremo assieme a voi, che allietate sempre le iniziative, le manifestazioni. Ti ringraziamo per il tuo contributo alla nostra trasmissione. Un saluto da tutta la radio, grazie mille e buonanotte. E comunque ci saremo un appello, quando saremo la data dell'appello ve lo diremo. Assolutamente, okay. Cercheremo di portarvi la massima solidarietà possibile. Buonasera. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, buonasera. Ciao. Sì, poi appunto era, insomma, il periodo in cui si situa tutta questa situazione che ha raccontato, era a Milano quello in cui erano stati annunciati 200 sgombri, quindi insomma in tutta la città si resisteva nei quartieri. In questo processo è coinvolto anche un compagno che ha avuto anche una condanna più alta, e a tante altre persone, quindi insomma era bene ricordare il periodo, giusto perché anche adesso stanno sgomberando tanto nei quartieri popolari, e quindi qualsiasi piazza animata, qualsiasi forma di resistenza, di azione, di organizzazione, ben venga per riuscire a resistere in una metropoli difficile come questa e nei quartieri popolari. E ci sono anche tante altre forme di piccola resistenza di cui poi magari vi raccontiamo un attimo. Allora, questa era Blondie con One Way or Another. Ma Blondie era una mamma? Ma non lo so, però tu che fai per il, alla mamma per il 9 maggio? Ma non lo so, cioè tendenzialmente tipo tutti i miei amici tipo il 9 maggio fanno i lavoretti, ma io in realtà vorrei che tipo mia madre, cioè vorrei organizzarmi con mia madre e fare come hanno fatto le mamme a Livorno, ma scusa, no, me lo potevi, me lo sei spiegato tu prima, che è successo con le mamme a Livorno? Qualche giorno fa a Livorno 20 mamme hanno organizzato proprio un esproprio proletario vecchio stile. Ci ha fatto sorridere questa, anzi, ha fatto sorridere non solo perché ci ha ispirato, perché comunque con un pochino di ingegno a volte ci si inventa delle cose che sono veramente, possono essere forti di impatto. Queste 20 mamme sono andate in una Coop, hanno riempito i carrelli di quello che volevano, sono uscite senza pagare, dicendo questa spesa la pagherà il comune. Un gesto molto simbolico, perché dicono, quello che dicono è: finché non ci date i sussidi e dei soldi, noi non paghiamo più la spesa. La cosa interessante è che sono state inseguite poi dalle guardie giurate mentre scappavano, poi sono state fermate dalla polizia, ma sono riuscite ad uscirne indenni senza ricevere nessuna denuncia. Grandi. Esatto. Soprattutto visto anche che in quest'anno i supermercati, molte catene di supermercati sono state tra quelle che hanno incrementato di più i loro guadagni. Sì, anche perché ti ricordi anche all'inizio della pandemia c'erano stati, no, dei momenti anche da una parte di tensione, dall'altra di riappropriazione nei supermercati, proprio perché insomma in un periodo del genere poi si nota ancora di più come si dipende solo dalla grande distribuzione, non c'è tuttora molto lavoro. Persone erano solo chiuse in casa potendo andare a fare la spesa ma magari non lavorando, quindi insomma che anche i punti della grande distribuzione che hanno guadagnato così tanto in questo periodo diventino per un momento magari un luogo che si attraversa in un altro modo è una bella notizia, no? È anche una bella notizia che le mamme di Livorno sono andate via senza denuncia, non come i compagni e le compagne quando vanno al supermercato, però giusto così per dire. Insomma, nonostante l'amministrazione comunale di Livorno dichiari che questi gesti simili non devono più accadere, noi invece ci auguriamo che si moltiplichino. Sì, e sempre rispetto a cose che ci auguriamo che succedano, anche se in questo caso parliamo comunque di una cosa molto forte, perché ha sempre delle conseguenze molto gravi, molto forti, vi vogliamo raccontare di una rivolta nel centro di permanenza per il rimpatrio di Milano, che è l'ennesima da quando è aperto a fine settembre. E qualche giorno fa alcuni ragazzi detenuti nel centro si sono radunati nel cortile, poi sono saliti sui tetti per tentare di superare le recinzioni in ferro che circondano tutto il CPR. E quattro persone sono finite in ospedale, tre ragazzi che hanno molto giovani, tra i 25 e i 27 anni, sono finiti in ospedale perché sono caduti dal tetto mentre cercavano di scappare, sono rimasti feriti, e il quarto è stato portato dopo in ospedale perché si era ferito a una mano. E tra l'altro, vabbè, i giornali quando ne parlano riportano sempre solo i piagnistei degli sbirri che dicono che il centro è pericoloso per loro. E insomma questa volta si stupivano un po' di questa contraddizione, dicono: ma in realtà non sarebbe neanche una prigione, non sarebbe neanche un tentativo di evasione. Fatto sta che questo non sorprende, perché la detenzione amministrativa è proprio completamente una modalità di gestione delle vite delle persone che emigrano, totalmente diciamo arbitraria, in un certo senso ancora più del carcere. Le persone finiscono dentro i centri di permanenza per il rimpatrio solo perché non hanno i documenti diciamo in regola, e per poi essere deportati nei loro paesi di origine, dove come sappiamo sono molte volte costretti, o scelgono in alcuni casi, però molto spesso costretti a fuggire proprio dalle depredazioni degli stati occidentali, dalle guerre. E quindi il CPR di Milano è stato pensato proprio per funzionare bene, come molte volte dice anche il sindaco Sala. Funzionare bene significa tenerli il più possibile isolati, prevenire ogni contatto con l'esterno e poi deportarli velocemente. Questo purtroppo sta accadendo abbastanza spesso. Da quando ha aperto, come dicevo, il CPR, le rivolte sono state tantissime, tentativi di fuga, materassi in fiamme, danneggiamenti, anche diciamo forme di esasperazione, di rivolta individuali e tragiche come tentati suicidi. E questo perché le persone che sono rinchiuse lì dentro sanno bene che dopo tutta la sofferenza e la fatica che hanno fatto per arrivare qua, molte volte rischiando la vita nelle frontiere, attraverso le montagne, con la neve, in mare, insomma sono veramente disposti a tutto per lottare. E è molto difficile comunicare da loro proprio perché, per come è stato pensato il CPR, ma ci si prova sempre. E visto che prima dicevamo di cose che ci si augurano, il CPR in via Corelli era già stato aperto anni fa, le rivolte l'hanno chiuso e noi speriamo che lo chiudano di nuovo. Noi saremo, per quanto possibile, per quanto riusciremo, sempre al fianco di chi lotta dentro questi posti infernali. E dopo tutte queste cose che succedono dentro al CPR, al di fuori invece i ritmi della città continuano imperterriti. Adesso ci ascoltiamo una canzone che parla proprio di questo, Le Vals Hamilton di Jacques Brel. Oh, premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Selon sa main, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Frosse nos amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour a fraîchi au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, presque dans sa montre, sans prendre le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la. E sulle note di I Will Survive di Gloria Gaynor cominciamo a raccontarvi le iniziative di questa settimana. I Will Survive perché noi non ci accontentiamo certo di sopravvivere. E proprio per questo partiamo allora da quello che vi raccontavamo anche prima per lo sgombero del presidio di San Didero, il campeggio resistente Notav. Come scrivono le compagne e i compagni e tutte le persone che si mobilitano in valle, un campeggio per continuare la mobilitazione permanente in difesa dei terreni di San Didero, su cui sorge il presidio ex autoporto, e per ostacolare i lavori del nuovo ecomostro di cemento. Invitiamo tutti e tutte a raggiungerci da venerdì 16 per un campeggio resistente. I terreni che ci ospiteranno sono a San Didero, nella zona dell'acciaieria. Invitano a portarsi il necessario per campeggiare. Sarà un momento per confrontarsi, organizzarsi e rispondere in maniera collettiva a questo ennesimo tentativo di devastazione ambientale e di militarizzazione. Infatti, campeggio, dice, la cura è nella terra. Quindi 16, 17, 18 aprile all'area di San Didero. Per chi invece rimane in città, ricordiamo, come ci diceva prima nella nostra intervista il nostro compagno, che domattina davanti al piccolo, ci sarà l'incontro delle piccole e medie compagnie teatrali. Invece alle 18 monteranno un palco all'esterno e faranno un soundcheck alle 18. Poi ricordiamo che l'iniziativa del nuovo laboratorio di serigrafia che era prevista per sabato invece è stata annullata ed è stata rimandata al 1° maggio. Il laboratorio di cui stiamo parlando è un nuovo laboratorio di serigrafia nato in Villa Vegan, si chiama Fuori Contatto, e il 1° maggio faranno questo laboratorio, appunto, che parlerà di serigrafia e ripercorreranno proprio tutti i passi delle varie tecniche per fare serigrafia. E sarà alle 11 del mattino, ma comunque lo ricorderemo anche settimana prossima. Sempre riguardo a settimana prossima, cominciamo a darvi delle anticipazioni. Infatti il 23 aprile, il venerdì, ci sarà un aperitivo dalle 17 in Corvetto per parlare di carcere. Ci sarà aperitivo, musica e lettura di lettere che sono state scritte da detenuti e detenute in quest'anno di pandemia. Poi il 25 aprile a Saronno invece. E appunto ci spostiamo a Saronno e ci sarà un ritrovo alle 10 in Piazza Libertà, e affinché il 25 aprile non sia solo una ricorrenza, ma che dia nuova linfa e nuovo slancio alle lotte di ieri, di oggi e di domani. Sentiamo la nostra responsabilità di scendere nuovamente in strada nel tentativo di intrecciare le esperienze di chi quotidianamente si batte per il superamento della miseria che siamo abituati a vivere. Liberarci è necessario, ieri come oggi. Quindi appunto il 25 aprile c'è l'appuntamento a Saronno e poi vi terremo aggiornati se ci saranno altre iniziative per quella data a Milano e dintorni. E vi ricorderemo ovviamente nelle prossime settimane sempre appunto di questi appuntamenti. Ho dimenticato anche di questa iniziativa RO. Il 24 aprile ci sarà una cicloparata dalle 11 del mattino che continuerà in biciclettata resistente fino alle 14 e dalle 15 verrà restaurato un murales e ci sarà un presidio con interventi, musica, performance, incursioni teatrali e letture. Musica? No, non è mica finita qua. Oh, ma cosa pensi? C'è anche un incontro informativo sull'ENI, questa volta online, che sarà sempre il venerdì 23 aprile alle 18. E si parlerà della strategia politico-economico-militare dei governi italiani, le armi della diplomazia, degli affari e delle ONG. Se volete partecipare, scrivete al centro documentazione contro la guerra, @inventati.org. Vi ricordiamo che se volete scriverci di iniziative per le prossime puntate, vi ricordiamo la nostra mail malaradio@autistici.org. E adesso musica. Sasso per la libertà, come Reza, libera, Reza, libera, Reza, ti fa da vincerà. Un sasso qua, un sasso là, un sasso per la libertà, come Reza, libera, Reza, libera, Reza, ti fa da vincerà. Hola amigo mío, que me cuentas desde allá, aquí la misma mierda no se deja de luchar, tengo que contarte que llegaste hasta acá, tu sonrisa y tu mensaje nunca se van a apagar, nunca se van a apagar. Aquí hay un hermanito que te quiere celebrar, seguro que te va a gustar lo que ahora cantará. Lo subirá y se va a quemar ese grito de esperanza, de justicia y dignidad, de justicia y dignidad. انا بعرف انه في مقام بفلسطين وبعرف انه في حدا بدافع وماشي على الدين، بس لما تعرف انه في حدا من برا بحب فلسطين اكثر منا بألف مرة، بتحس بقناع انه عايش فيها وبيعالي كل شخص بيحاولي عليها، شخص بعشقها وبعشق اراضيها، اذا زعلت بغني ورب وبراضيها، بتحس انك فلسطيني بذرة امل، بذرة بتكبر وبتصير جبل، شكرا لكل مناضل منكم ان شاء الله يتحقق حلمنا وحلمكم، علموا العديد ان هذه فلسطين، فمن قد يعلم فهذا الشخص لا مثيل له، لكن لم يستطع ان يكمل فصابه خبيث واتاه الاجل، ودعني افيدس يا من كلك امل، ودعني افيدس يا من كلك امل، ودعني افيدس يا من كلك امل. alza in alto il pugno chiuso per la libertà contro ogni abuso, alza il pugno fino in fondo, siamo tutti quanti cittadini del mondo, alza in alto il pugno chiuso per la libertà contro ogni abuso, alza il pugno fino in fondo, siamo tutti quanti cittadini del mondo, cittadini del mondo, cittadini del mondo, cittadini del mondo, siamo tutti quanti cittadini del mondo. شكرا لك لانك اعطتني هدية، هديتك كانت انك عرفتني على شخصية، عرفتني على فيت، على امه، امه اللي بتحمل الصبر كله، يا ام ميلان لا تقلقي ان الناس يمروا ضجاج في حقك، انا بلسان فلسطيني اتكلم، دعني افيتس يا من كان اتعلم ان هناك اشخاص من خارج بلادنا ينتظرون شد استقلالنا، يا ام ميلان هذا هو ابنك بطل من ابطال ارضك، فافرحي فيه ولا تبكي عليه، فنحن نقدم الشكر اليه، افيتس احببنا بحجم جبل ونحن احببنا بحجم ما فينا من امل. Que la lucha no se puede perder, resistencia fuerte hay que tener, sin pedir permiso está en nuestro poder, regresar derecho al cual creer, es vida real, control y legalidad, las raíces no pueden mentir. Bajo el suelo ya crecen sin fin, conexión que nunca va a morir, el amor no dejará de subir, hasta el sol y más allá por ti, esta tierra no tiene una fe, cada piedra de esta pared, de cualquier frontera hay que romper, derrumbar que quita libertad, somos una sola humanidad, sin piedad imposible perdonar, esta es la solución final, para juntos poder triunfar, para poder triunfar. Marocchino in Palestina, zi. Vabbè, quella è, sì, quella di Gaza. Bravo, Gaza, sì. Gaza libera. Com'è che è? Gaza. Sasso per la libertà, come Gaza libera, Gaza libera, Gaza. E ti farò più veloce. Ok, Yo, tutto è cominciato quando l'avete colonizzato, quando l'avete schiavizzato, derubato, separato anni fa. E questa era Freedom, una canzone per l'anima di un ragazzo chiamato Fitz, per una lotta chiamata Palestina. Esatto, a proposito di Palestina, oggi ricorre il decennale dell'uccisione di Vic, Vittorio Arrigoni, un attivista per la Palestina, che è stato ucciso da un gruppo salafita a Gaza proprio. E niente, ci tenevamo particolarmente tutti e tutte, noi di Mala Radio, a mandare questa canzone, Freedom, perché cantava insomma un nostro amico che se n'è andato in questa settimana, tutta la puntata volevamo dedicarla a lui, a Bruno, un compagno, un rider, però noi pensiamo ancora che Bruno lotta e Bruno pedala ancora nella città per la libertà. Siamo giunti alla conclusione di questa prima puntata di Mala Radio, ora ci sentiamo un'altra canzone dove insomma interpreta De André con la canzone del maggio. E vi lasciamo, ci sentiamo se vorrete, insomma giovedì prossimo dalle ore 20:30 in poi. Buona serata a tutti e buonanotte a tutti e a tutte. E anche se il vostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti non sta succedendo niente,